Ore 8:56 di giovedì, credo 26 gennaio 2005, forse 27, dovrei controllare. C'è stato qualche problema nel feed RSS di Pendo Deliri, che ora però è stato riparato, quindi non dovrebbero esserci più problemi a scaricare tutte le puntate dell'archivio. Cominciano ad essere parecchie, forse troppe. In ogni caso, adesso la situazione è sotto controllo, mentre vedo che c'è grande attività tra gli altri podcasters, sia il Caffè Nichilismo, ha messo in onda una puntata molto divertente sul rock adolescenziale, che invito tutti ad ascoltare, sia Quix, che ha avuto anche la generosità di citarmi, quindi ringrazio i fratelli Magno Cavallo, credo che siano i responsabili di questo, che è comunque il primo podcast in Italia, quindi credo rimarranno veramente nella storia, sempre che tutta questa storia del podcasting non si riveli quella che gli anglosassoni definiscono una internet fad, cioè una moda passeggera di internet, come le troppe mode che sono trascorse, sono passate a cavallo tra il 2000-2001, nel periodo di massimo fulgore della rete. Però io credo che il podcasting dia invece segnali importanti di un consolidamento anche presso i cosiddetti broadcaster tradizionali. Infatti anche la BBC sta estendendo questa tecnica, c'è un nuovo programma della BBC che viene trasmesso in podcasting, lo trovate tra le ultime uscite che vengono pubblicate su Podcast Alley. E anche il mondo francofono, che sconta sempre un ritardo nei confronti di internet dovuto a tutta una serie di fattori, il nazionalismo, il Minitel, eccetera, però anche i francesi si sono svegliati e Arte Radio, che è una web radio storica in lingua francese, è passata al podcasting. Ne parlo in un articolo su Quix. Arte Radio è sempre stata più un portale radio on demand che un vero e proprio strumento radiofonico, e quindi forse più di ogni altra radio si prestava a questa rivoluzione. Adesso tutti i reportage di Arte Radio sono scaricabili sui client per il podcasting. Arte Radio, che lo ricordo, è la costola, diciamo, radiofonica, la costola audio della più famosa Arte TV, canale franco-tedesco che trasmette in radio su tutta l'Europa grazie al satellite e anche alle reti via cavo, questi programmi che vengono definiti a torto, a mio parere, culturali per il solo fatto di essere migliori di quelli che vanno in onda sulle reti nostrane. Da Arte il Becerum è completamente bandito e c'è sempre un controllo di qualità straordinario, tant'è che molto spesso a casa tengo il televisore acceso su Arte anche senza guardare effettivamente il programma, solo per la bellezza delle immagini, cioè come se ci fosse una linea della qualità che viene sempre garantita, e questo è sicuramente un grande merito. Arte Radio chiaramente ha delle prospettive, delle ambizioni molto ridotte rispetto alla più ricca sorella televisiva, che viene finanziata dai governi francese e tedesco, lo ricordo, però anche con questo budget ristretto e con una formula del tutto autarchica riescono a fare cose straordinarie, quindi invito tutti a collegarsi anche a www.arteradio.com. Soprattutto consultate l'area dossier, che contiene dei veri e propri speciali a puntate su singole aree tematiche.